Un ciao da Max Macchia, 451 frammenti sonori che ritorna in diretta dopo un paio di settimane così di assenza, ma insomma avrete fatto senz'altro altro, o perlomeno ascoltate insomma la trasmissione di Eliseo, appunto Eliseo Scarpa, 451 intersezioni, e trasmissione gemella della faccenda di frammenti sonori che state invece ascoltando adesso appunto in mia compagnia, Max Macchia, ma poi si potrebbe anche dire un tutt'uno di progettualità che va avanti da un po' di tempo, Città Fujiko, e questa sera trasmissione che dedicheremo a un personaggio assolutamente misconosciuto, forse un po' di culto, ma più per musicisti che si cimentano con le elettroniche, più che un culto di quelli che, non so, si vanno a cercare i pochissimi lavori, tra l'altro fatti tra il 78 e l'80, oppure si vanno insomma a cercare sulla rete memorabilie legate a Robert Rental. Infatti tratteremo appunto di questo genio dell'elettronica tra la fine degli anni 70 e proprio lo scorcio, l'inizio del decennio appunto successivo, personaggio che in maniera sotterranea, underground, ha tracciato una delle più importanti parabole musicali per quanto riguarda un ponte che tra l'altro troveremo anche proprio come discorso e come anche titolazione di un storico album, di un album tra i più fondamentali per chi voglia capire uno snodo storico fondamentale, ma poi un album proprio di elettronica, The Bridge, fondamentale per chi ama certe sonorità e non solo, visto che poi con l'elettronica poi di riffo, di raffo ne hanno insomma fatta un po' tutti, e anche chi non la fa, chi è lontano, poi di fatto si deve comunque attrezzare perlomeno in termini tecnologici, in quanto la registrazione viene insomma con strumentazioni elettroniche, in primis insomma il mixer, quindi di fatto insomma non si può tralasciare quello che anche Rental ha fatto nel corso della sua brevissima stagione ma intensissima, ovvero anche quella di essere un grande pioniere in ambito tecnico e tecnologico, tant'è che insomma inventerà, oltre che modi di suonare, oltre che attitudini sonore e con le sue arte assolutamente visionaria, e avrà modo anche di far imparare soprattutto a altri sodali industrial, chiamiamoli così, perché insomma erano dei guastatori e volevano appunto essere tali, non so, si potrebbe citare William Bennett, ma lo stesso Daniel Miller, che per tanti versi fu fratello insomma musicale di Robert Rental, insieme ovviamente a Thomas Lear, che collaborerà direttamente proprio con Robert Rental. Parliamo di Industrial Record, quindi l'etichetta di Tobin Gristle, parliamo di Mute appunto di Daniel Miller, quindi tutto quello che dall'industrial al tecnopop e anche al recupero di certa musica cosmica, perché no, fino a rock insomma che si spostava su versanti ben diversi insomma da ecco il rock classico, se pensiamo insomma che nella Mute girava un certo Nick Cave, che si faceva accompagnare da Blixa Bargett e da vari personaggi come Barry Adamson, che uscivano da tutt'altra faccenda, assolutamente non rock e addirittura anti-rock per tanti aspetti, quindi anche questa faccenda ci porta lontano. Di Amanda Gallas, insomma, veramente si va a prendere una buona porzione degli ultimi 30 e passa anni di musiche sperimentali, alternative, ma anche tecnopop, se pensiamo insomma a come la vulgata anche appunto di Rental diventò poi tecnopop con Depeche Mode ad esempio, non solo con Yazoo e con tutta quella genia che ancora oggi, anzi più oggi che qualche anno fa, viene così a riprendere appunto il discorso di Rental. E in effetti poi questa sera metteremo anche qualcosa che si riferisce appunto ai nuovi, nuovi progetti, che direttamente ci fermeremo soltanto a quei progetti che citano direttamente Robert Rental. In realtà, insomma, basterebbe prendere veramente quasi tutta, un buon 90% delle uscite, lo dicono anche nel senso buono, perché insomma recuperare un suono come quello di Rental non è affatto un discorso semplicemente retroattivo, ma anche appunto di spostamento, di ponte appunto verso un futuro che per tanti versi è stato così visionato e così annunciato dalle sperimentazioni di Robert Rental. E appunto buona parte insomma di tutta quella che adesso viene chiamata minimal synthwave, che appunto si rifà a quello originale, che all'epoca si chiamava cold wave, ma molto, molto spesso era semplicemente, semplicemente per modo di dire, industrial music, wave elettronica, ecco. E ora appunto da Tropical Cancer a varie insomma etichette che s'aggirano in maniera più o meno interessante insomma in termini musicali nei nostri giorni, appunto nell'odierno, nell'attuale. Robert Rental, per iniziare, da Paralysis, un suono che già cerca un altrove, che per molti versi troverà appunto con The Bridge, che ascolteremo tra poco. Ma Paralysis già con il suo uso, tra l'altro assolutamente geniale, di quello che era lo stilophone, una specie di giocattolo, marchingegno molto piccolo che si suonava appunto con uno stilo, quindi con un pennino, e Robert Rental veramente fa un autentico capolavoro partendo semplicemente da questo. E ditemi insomma se è poco la faccenda. Andiamo appunto a sentirci Paralysis dal suo primo 45 giri, 1978. Robert Rental, scozzese di nascita, ma insieme al, appunto, al suo amico, oltre che collaboratore stretto, Thomas Lear, si trasferirà, insomma, piuttosto giovane anche all'inizio degli anni 70, proprio in Inghilterra. E in Inghilterra scoprirà, insomma, le prime strumentazioni elettroniche e sarà un autentico pioniere, come dicevo prima, appunto di dei suoni più lancinanti e più seminali nel vero senso della parola, non semplicemente, insomma, così, parola che può essere evasiva poi rispetto invece a un percorso che è preciso e specifico, anche quello di Rental, ovvero cercare con i macchinari, anche tra l'altro molto grezzi, che aveva all'epoca, uno dei suoni o varie possibilità appunto offerte da questo, uno dei suoni che fu definito da Monte Cazzazza all'epoca industrial, che peraltro, insomma, fu dentro il post-punk, quindi quel suono che stava creando quel futuro sonoro che poi esploderà da lì a pochissimo. Stiamo parlando, insomma, di un breve arco temporale tra il 78 e l'80, e un suono che è esplorato con strumenti, ad esempio abbiamo sentito con Paralysis, giocattolo come lo stilofon, in realtà nasce proprio come strumento, micro strumento, visto che era molto piccolo, legato a esplorazioni musicali proto casalinghe, ancora quando, insomma, non esisteva di fatto quello che poi un bel po' di anni dopo sarà l'esperimento, insomma, dell'house music, quindi delle prime strumentazioni utilizzate veramente a casa. Semplice curiosità che negli anni 70 potevano essere così amene e sul mercato magari riuscivano anche a vendere qualcosa, e di fatto da Rental vengono utilizzate in una maniera espressionista assolutamente nuova, creando veramente un impatto sonoro, come abbiamo sentito, piuttosto interessante, oltre che una crudezza che viene appunto da un suono decisamente brutalizzato. C'è e buona parte della sua generazione, che questa sera, insomma, evidentemente e inevitabilmente tratteremo, se non direttamente ascoltando ma citando i vari, insomma, in primis appunto Thomas Lear, che fu suo amico e collaboratore e che tra poco sentiremo nel loro capolavoro assoluto che è The Bridge, e ci fu appunto quella generazione che era nata forse un po' prima del punk, per quanto riguarda, anzi senza forse, Throbbing Gristle e Cabaret Voltaire, ma quelli sono pionieri dei pionieri, seppur, insomma, Rental passerà a un po' di tecnica, lo stesso Chris Carter dei Throbbing Gristle nel 1978, ad esempio, con uno strumento come uno dei primi synth, che era l'EDP Wasp, un sintetizzatore appunto dell'epoca, anche piuttosto, insomma, arcano nell'utilizzo. Forse anche in questo senso si può rintracciare quel senso punk, do yourself, che Rental, insieme agli altri dell'Industrial Record, della Mute e di buona parte, insomma, dei pionieri dell'industrial sound, stavano proprio di fatto esplorando, e avrebbero poi dato, insomma, grandi possibilità alle generazioni future, tuttora, insomma, il riciclo e anche proprio la ricerca che stanno facendo molti giovani musicisti di quelle macchine è molto interessante, proprio per ripercorrere un suono che potenzialmente ancora dà moltissimo, insomma, sia in termini di rumorismo e sperimentazioni appunto legate al noise, ma anche appunto a quel suono incredibile che fu, accennavo prima, assolutamente fondativo per tutta questa generazione di primi industrial, che è quello della musica cosmica tedesca. In Rental c'è moltissimo di questa di questo aspetto sonoro, di questo aspetto attitudinale che viene appunto dai cosmici tedeschi, ma con una spinta insomma in più legata sia all'uso tecnologico deviante, punk, anche di strumentazione che veniva costruita appunto come vi dicevo prima, lo stilofono come quasi giocattolo, amenità, insomma un po' di tempo libero passato a giochicchiare con questo pennino su questa tastierina molto piccola, che poteva essere insomma interessante e così per scacciare la noia. Ricordiamo insomma che all'epoca i videogiochi alla fine degli anni 70 insomma stavano entrando dentro le case, oltre che essere insomma nei luoghi pubblici particolarmente utilizzati, e di conseguenza insomma le tecnologie stavano diventando casalinghe, homemade, come anche insomma celebravano così in una maniera piuttosto ambigua e anche carica insomma di tensione anche i Kraftwerk, ad esempio, poi citando insomma la storica formazione della Cosmice, ma non solo, dentro le corde di Rental, come della buona parte dell'Industrial Record e della Mute di Daniel Miller, e c'erano faccende legate sicuramente a Cluster primissimi, quelli con la K, ma anche ai primi lavori di Cluster con la C, che forse ammorbidirono un po' quella sperimentazione elettroacustica dei Cluster con la K, certe faccende sicuramente di Faust, che torneranno spesso tra l'altro nelle citazioni di questi protagonisti e nello stesso Rental. Ce lo andiamo proprio a sentire questo momento inizialmente battuto, quindi forse più vicino insomma a quello che era fu la sperimentazione dei Kraftwerk dentro The Bridge, insomma Thomas Lear e Robert Rental nel 79 fanno uscire questo gioiello incredibile, un vero e proprio ponte per le musiche elettroniche, un ponte in primo luogo immediatamente scorto tra musiche cosmiche e musiche industrial nascenti, e poi un ponte per tutto un modo di intendere insomma la sperimentazione non soltanto elettronica. Tra l'altro prima citavamo Cluster per con la K insomma con per l'elettroacustica, ma un modo di muoversi verso le esplorazioni sonore che eliminare. Infatti i primi pezzi che ascolteremo sono sorte di cosmice con la battuta prototecno e con questo canto che devia già il canto urlato e deviante del punk, e quando c'è insomma il cantato, quando non è soltanto quasi un urlo, e qua insomma si va quasi a un aspetto primordiale legato a sia all'alienazione industrial e sia a quell'aspetto fortemente sentito espressionista di buona parte insomma del materiale di Rental, quando non addirittura c'è proprio anche qua una grande celebrazione con però quel senso appunto di oscurità anche e di grande preoccupazione legato al carattere tecnologico industriale che stava prendendo insomma la società in quegli anni. Ricordiamo insomma che gran parte della Mute, dell'Industrial Record, erano fortemente politicizzati in un senso insomma anche piuttosto radicale e non legato assolutamente insomma a forme così istituzionali anche all'epoca, ma legato più a un'idea e anche una pratica delle avanguardie storiche, e quindi futurismo, dadaismo, ma anche collegamenti poi con quei momenti di neoavanguardia che furono anche in Inghilterra, percorsi dall'improvvisazione radicale, da forme collettive di esperimenti, insomma, anche musicali, appunto, fatti insieme. E in questo caso un duo, Thomas Lear e Robert Rental, ma tutta l'Industrial Record, che tra l'altro, appunto, fa uscire questo disco incredibile, Fatelo Vostro, assolutamente, non può mancare, anche chi non ascolta elettronica, datemi retta. The Bridge, Robert Rental e Thomas Lear.

E abbiamo ascoltato appunto Thomas Rental, anzi ho fatto insomma il miscuglio, forse insomma sarebbero stati anche d'accordo sia Rental che Lear, dico forse perché insomma Rental da una quindicina d'anni purtroppo non c'è più, morto piuttosto giovane, l'eroe insomma musicale dell'elettronica Do Yourself di buona parte insomma di quell'immaginario che ancora oggi comprende insomma e anzi forse più di un altro ieri che è appena passato delle musiche elettroniche glitch, forse appunto oggi è ancora più attuale che mai appunto il suono di Robert Rental che abbiamo ascoltato dal suo The Bridge insieme a Thomas Lear, tutti e due scozzesi, prima accennavo, che si trasferirono in Inghilterra per sperimentare, per tentare insomma anche di creare poi quello che è stato uno dei momenti insomma più importanti delle musiche elettroniche, soprattutto senza insomma dare magari qualità e quantità per forza, ma uno dei momenti fondativi, ecco, in quel senso la caratterizzazione dell'originalità proprio come origine non può che partire dall'Industrial Record, da Throbbing Gristle, che facevano appunto uscire uno tra l'altro dei pochi dischi a 33 giri proprio per la loro etichetta, ovvero questo The Bridge che abbiamo ascoltato sia in termini di ritmica anticipa e forse porta anche un altrove che non è ancora stato esplorato, ritmicità robotiche che possono insomma ancora uscire, possono ancora deragliare, come d'altronde poi spostandoci nell'ascolto di The Bridge abbiamo sentito quasi in un'assenza di ritmo, in realtà un ritmo quasi che viene talmente accelerato da portare appunto a una specie di ambient negativa, industrial, quindi anche con tutto quello che poi sarà connesso e diventerà industrial ambient, dark ambient, insomma in varie maniere si voglia chiamare questo suono che deriva sia dai cosmici sia da quel senso punk portato però alle estreme conseguenze, se vogliamo poi forse l'industrial è il punk coerente, se insomma già Clash anche con i super contraddittori Sex Pistols a distanza di pochi mesi per molti aspetti insomma c'era stata una debacle legata a firme di contratti insomma con Major, qua invece Do Yourself funziona come porta anche lontano e tra l'altro crea anche quel dance se vogliamo spaesante vagamente pericolosa che anche la Mute farà, quindi anche l'underground che riesce a emergere diventa quasi major con la Mute, però ha ancora quel senso appunto alterato, alternativo, ricordiamo poi che la Mute arriverà insomma arrivata anzi ai nostri giorni e negli anni 90 produrrà personaggi come Plastic Man e sarà vicino a certe sperimentazioni di Thomas Brinkman e a faccende legate a Outtakes anche se non direttamente editati e prodotti e, appunto Mute che non solo come appunto anche Daniel Miller in maniera piuttosto così sorgnona ci faceva capire una decina di anni fa allo scoppio insomma dell'Electro Clash che la Mute non è Doma, facendo insomma capire con poche parole che la faccenda insomma era già stata fatta e che insomma non erano semplicemente che emoli e così che ogni tanto potevano essere anche simpatici, faccende insomma legate all'elettro crashing vario, e che invece appunto dentro con suono che viene inventato e reinventato ogni qualvolta insomma si fa uscire per la Mute, potremmo anche dire ad esempio una Mute che rifiuta gli ultimi dischi di Estruzzen Neubauten, per capirci, insomma non è neanche interessata addirittura a sottolineare quello che ha fatto nel corso degli anni. Ricordiamo tanti storici dischi di Estruzzen proprio usciti per la Mute e poi dopo anche così in maniera molto aperta insomma rifiutati, perché non dentro appunto quell'esplorazione che ancora Daniel Miller e la Mute ha voluto e ancora riesce a fare. E d'altronde Rental non poteva che rientrare dentro questa incredibile factory di talenti e anche di grande visionarietà. Infatti questa sera insomma legandoci a Rental abbiamo voluto insomma di fatto parlare di arte e visione, proprio perché c'è uno spostamento che non può essere che in un altrove, insomma, quindi in una visione, in una visionarietà che evidentemente non può che spostare in avanti insomma la visione delle musiche di Rental, già di fatto insomma sono sperimentazioni che si muovono già su un visivo quasi, oltre che visionare insomma in termini musicali. Primi esperimenti anche di clip assolutamente autoprodotti vengono proprio fatti in quegli anni, vengono proprio fatti da questa generazione industrial, se pensiamo insomma a Cabaret Voltaire e se pensiamo ai primi esperimenti di James P. Orridge, ma degli stessi Throbbing Gristle insomma buona parte insomma della Mute e dell'Industrial Record. Tra l'altro abbiamo tratto da The Bridge Attack Decay, che fa parte della colonna sonora di uno dei film che speriamo insomma riusciremo a vedere qua in Italia, o comunque riusciremo insomma a raggiungere in qualche maniera, ovvero Industrial Soundtrack for the Urban Decay, che esce appunto in questo 2015, che vi consiglio di andare a vedere già. Aspettate magari la fine della trasmissione se vi interessa insomma ancora ascoltare musica assolutamente allucinante, fantastica, e andatevi a vedere appunto il promo e la presentazione, la demo insomma di Industrial Soundtrack for the Urban Decay, film che celebra completamente l'industrial music proprio in un momento come questo insomma in cui sia il capitalismo anche analizzato da parte di alcuni degli industriali, senz'altro da parte di Rental, con un suono che andava dal macchinico anche a quel forte senso appunto di alienazione, quindi quell'aspetto doppio dell'industrializzazione del capitalismo avanzato insomma della fine degli anni 70, che porterà poi di fatto ai nostri giorni, se pensiamo insomma che personaggi come Reagan e la Thatcher appunto vengono proprio fuori in quel momento e tracciano un momento storico che tuttora ahimè e ai noi continua in termini insomma di neoliberismo. Questi sono grandi antagonisti rispetto a quel modello, e c'è chi lo faceva in maniera più viscerale, se vogliamo anche con provocazioni che tante volte sono state lette insomma semplicemente come provocazioni fine a se stesse, non lo erano affatto insomma, anche insomma lo stesso Boyd Rice, non che avrà modo insomma di conoscere Rental stando dentro appunto il giro Mute, e non semplificherà la faccenda appunto buttandola lì sul cruento e sulla maniera insomma anche che tante volte con cui si è voluto leggere molta musica industrial, non per togliere, anzi non per far guadagnare qualcosa a qualcuno che insomma della maniera industrial poi ci ha campato e come, ci ha fatto anche qualche soldino intorno alla fine degli anni 80 e soprattutto negli anni 90, quando è stato anche un po', come dire, depotenziato il termine in un certo qual modo in un tentativo di impacchettarlo, ma poi appunto siamo al 2005 e il film di Amélie Ravalek e Travis Collins invece è buona musica, insomma, e tanta che sta uscendo in questo periodo ci riporta invece proprio a quei primi momenti di industrial che poi appunto sono durati in maniera underground dentro le sperimentazioni di vario tipo, che insomma dentro 451 frammenti sonori, 451 intersezioni trattiamo in varie situazioni anche appunto e soprattutto attuali. E come dire, quindi un suono, un'attitudine che non va a perdersi, anzi si accentua sempre più, forse insomma immaginando anche un Dottor Who, se la fantascienza insomma degli anni 60 appunto del Dottor Who era ancora utopica, e questi invece sono distopici, come un pezzo come Interferon che e veramente sposta le lancette dell'orologio, forse rompe completamente appunto da questo The Bridge. Tra l'altro The Bricks Night Hills era, che abbiamo ascoltato dopo Attack Decay, tratto da Industrial Record Story, quindi altro momento assolutamente fondamentale delle musiche elettroniche, delle musiche altre in generale. E poi c'era The Hard Way in The Easy Way Out, che già anticipava quello che sentirete tra pochissimo, appunto Interferon, in termini appunto di una ambientazione assolutamente fuori dal terrestre, o che se è terrestre è assolutamente sotterranea, quasi a cercare una sorta di passaggio assurdo verso musiche che si muovono verso un altrove, per molti aspetti appunto trovato, e The Hard Way In The Easy Way Out era tratto tra l'altro da John Savage, Secret History of Post Punk. Anche qua potremmo parlare parecchio di John Savage, vi dico soltanto insomma che è stato uno dei critici, forse il critico più importante proprio per il lancio dell'industrial music, quindi è chiaramente inserito nella sua collezione insomma della storia segreta del post-punk, anche appunto un pezzo di Robert Rental. In questo caso invece Interferon lo trovate soltanto in The Bridge, forse in alcune compilation che comunque stanno girando in MP3 sulla rete, ma comunque più forse importante da far ascoltare appunto come The Bridge che come altre uscite varie ed eventuali che ci potrebbero anche essere. E Thomas Rental, appunto continuo a dire Robert Rental e Thomas Lear con Interferon. pezzo veramente straordinario, come gran parte insomma delle faccende legate a Robert Rental, ma qua si tocca veramente punte di grande genia, di grande genialità, e di fatto insomma tutta l'area grigia, la grey area musicale, che in maniera insomma geniale, altrettanto geniale, fu coniata da Daniel Miller per definire queste musiche indefinibili per molti aspetti, ma autodefinite appunto industrial dagli stessi protagonisti, appunto un'invenzione nominale di e sostanziale anche di fatto di Monte Cazzazza, quindi un sperimentatore industrial e brutista, anche culturale, controculturale, insomma grossa capacità provocatoria, anche di capacità così appunto visive piuttosto forti, ecco, storiche insomma, e le sue performance e anche momenti legati a, ad esempio, a mail art, e quindi cose anche assurde che mandava tramite appunto quella che era una sorta di internet autogestita, senza appunto ancora l'avvento di internet, tra la fine degli anni 70 e i primi anni 80, grigliare appunto, che non può non partire appunto da un pezzo come Interferon di Thomas Lear e Robert Rental. Ci andiamo appunto proprio ad ascoltare così a cavallo The Bridge, no? Il ponte tra la prima parte e la seconda parte di 451 frammenti sonori dedicati a Robert Rental, proprio due figliocci che potrebbero essere di Rental. Il primo strettamente anche musicale, e i Coplets senz'altro insomma hanno dedicato proprio un pezzo a Rental, e qua in questo concepto mix si vedono proprio anche una specie di collaborazione assolutamente assurda, insomma dopo 15 anni dalla morte di Rental non si può di certo collaborare, ma si può riprendere un'attitudine e si può insomma recuperare senz'altro anche uno spirito decisamente iconoclasta e decisamente insomma inquieto e dedito insomma a una grande avventura sonora che i Coplets per molti aspetti sta riprendendo appunto da Robert Rental, cui dedicano appunto questa strana collaborazione post e postuma anche a questo punto. E poi invece un gruppo che proviene da altra faccenda, magari potremmo mettere più Brian Eno per magari citare qualcuno che li potrebbe rappresentare, ma in realtà fanno anche loro una citazione soprattutto in questo ultimo periodo proprio di Robert Rental, ma non vi rovino la sorpresa, ammesso e non concesso che riusciate a riconoscere questi personaggi che sono un po' diversi dall'inizio.